il piccolo fiore di Ida. Credi nella magia? Nella fantasia? Pesci volanti e fiori danzanti? Oh, ma devi! Soltanto credendoci potrai vederla. Allora, sei pronto? Iniziamo con la storia di Ida e dei suoi fiori danzanti. Inizia tutto nella città di Quicksville, un luogo pieno di magia. Giocattoli, alberi, case, persino i mobili. Tutto prende vita qui. Ma c'è un problema. Solo quelli che credono nella magia possono vederla. Proprio nel centro di Quicksville, in una grande casa, viveva Ida. Ida era una dolce ragazzina che amava i suoi fiori. Le rose, i garofani, i narcisi, i tulipani. Quelli erano i suoi veri amici. Ma Ida non sorrideva mai. La fresca fragranza dei fiori, il sole splendente, la rugiada del mattino, ci provavano tutti duramente, ma tutti fallivano. Parlava ai suoi fiori, li trattava con cura. Tutti i giorni li annaffiava, eppure mai un sorriso. Ida amava disegnare. Suo padre adorava Ida. Voleva che la sua bella figlia sorridesse. Organizzò lezioni di arte nella propria casa. Tutte le menti giovani e brillanti di Quicksville andavano lì per imparare l'arte. Tra loro c'era Henry. Henry era un giovane ragazzo che credeva nella magia. Parlava con gli alberi e i cespugli. Le nuvole scendevano a terra solo per bagnarlo di pioggia. Nessuno credeva alle sue storie, ma questo non importava ad Henry. Un bel giorno... Cosa ci fai lì, Henry? Oh, sono contento che l'abbia chiesto. Guarda questo. Cosa c'è di sbagliato in te? Questo è orribile. Sai anche cosa hai disegnato? Sì. Ecco, questo è un uomo che pende dalla forca. Ha in mano un cuore per mostrare che ha rubato i cuori dalla gente. Io penso che sia piuttosto interessante. Interessante? Questo ragazzo è pazzo! L'altro giorno ha detto che è una stella cadente e una stella che lascia il cielo per andare a cercare l'amore. Davvero succede questo? Oh, certo che no! Basta con queste sciocchezze ora! Quante volte ti ho chiesto di smettere di raccontare bugie, Henry? Con tutto il dovuto rispetto, signore, l'immaginazione non è forse il modo in cui un bambino apprende le cose? Si apprendono ottime lezioni nutrendo le proprie fantasie. Mi stai insegnando come insegnare, ragazzo? Oh, no, stavo solo... Adesso basta! Non sto mentendo, vedi? Una bellissima stella me l'ha detto! La penna nella mano di Henry annuì eccitata, ma sfortunatamente Cherry non credeva nella magia, quindi non poteva vederla. Stiamo facendo tardi e dobbiamo iniziare la nostra lezione d'arte. Ora, dov'è quella ragazza che non sorride mai? Ida! Oh no! I miei fiori! Non so cosa sia successo! Guarda! Perché sei sempre preoccupata? Non hai imparato a sorridere? Ma non c'è niente di cui sorridere! Guarda i miei fiori! Ah, oh, che stupido! Ovviamente stanno appassendo! E perché? Innaffiare! Questo significa che stanno morendo! Oh, perbacco! Stavo meglio come pianista! Ora, questa è la natura! Tutto deve morire! Ora mettili da parte e cominciamo con la nostra lezione di oggi! Ma Ida non era dell'umore giusto per disegnare. Guardò tristemente i suoi fiori. Cosa ho fatto per farvi morire? Perché non ci può essere una ragione per essere felici? Cosa avrei dovuto fare per salvarvi? Non ascoltarlo, Ida. Non sono morti. Sono solo stanchi di ballare. Ballare? Beh, sì. Non conosci il castello fuori dalle porte della città? La casa estiva del nostro re? Tutti vanno lì di notte a ballare. ero ieri al castello. Non c'era un solo fiore o una sola foglia sugli alberi. Non rimangono lì durante il giorno. Il guardiano del castello non è gentile con loro. Non parla con loro e non li tratta con cura. Loro vanno lì a ballare perché vi è una grande pista da ballo. Ma devono fare attenzione al guardiano del castello che gira per il palazzo durante la notte. Un fiore è sempre di guardia alla porta. Non appena sente i suoi passi, avverte gli altri fiori. Così tutti corrono a nascondersi. Quindi, quando il castellano entra, sente solo un profumo di fiori, ma non vede nulla. Davvero? Sì, sì. Dopo il ballo, poi, tornano tutti da dove vengono. E poi aspettano di nuovo la notte. Aspetta, stai dicendo la verità? Voglio vedere, ma non posso andare al castello la notte. Come faccio? Fammi pensare. Ho un piano. Permetti di credermi, Ida? Perché il mio piano ti permetterà di vedere i fiori danzanti solo se prometterai di credermi. Va bene. Ottimo. Quando andrai a dormire stasera, chiudi la porta della tua stanza dei giocattoli. In questo modo i fiori non potranno uscire. Allora balleranno nella tua stanza dei giocattoli. Ma ricorda di lasciare molto spazio per loro, per lasciarli ballare senza battere contro i mobili. Sai come danzano a un ballo, giusto? Harry, che cosa stai facendo? Mi stava mostrando come ballano i fiori. Fiori danzanti? Abbi pietà di me! Come può qualcuno riempire la testa di un bambino con delle stupidaggini del genere? Ora basta con queste storie di fiori danzanti. Dopo la lezione, Ida tornò velocemente nella sua stanza. Oh, ciao, Sophie. Spero tu abbia dormito bene. Mi dispiace, Sophie, ma dovrei dormire da qualche altra parte stanotte. Questi fiori hanno bisogno di più attenzioni. Sono stanchi. Ida avrebbe potuto giurare di aver visto la faccia di Sophie diventare blu. Ma chi potrebbe mai credere che una bambola ha dei sentimenti? Dopotutto, la verità non è ciò in cui tutti credono? Dormite bene ora. Va bene? E se andate a ballare, non stancatevi troppo. I fiori non risposero a Ida, ma sapeva bene che la stavano ascoltando. Quella notte Ida non riuscì a dormire per molto tempo. Non aveva dimenticato quello che le aveva detto Harry. Aveva chiuso a chiave la porta della sua stanza dei giocattoli. Non voleva che i suoi fiori scappassero. Non voleva che si mettessero nei guai. Ma più di questo, voleva vederli ballare. E lei credeva che lo avrebbero fatto. Oh, per favore, fammi vedere i fiori ballare. Per favore! Finalmente il sonno arrivò. Cos'è quel rumore? Ah, devono essere fiori! Stanno ballando! Devo andare a vedere! Ed eccoli là! Le rose, i narcisi, i garofani... Tutti! Oh, che splendida vista che era! Tutti i fiori da tutti i vasi della sua stanza ondeggiavano e si muovevano sul pavimento. Un lillà suonava il piano. Dopo aver visto i fiori, anche i giocattoli di Ida non poterono trattenersi. Questa è la miglior notte della mia vita! Stava andando tutto bene quando all'improvviso il lungo manico di scopa urlò. Come può qualcuno riempire la testa di una bambina con una fantasia così sciocca? Perché? Hai visto le mie mosse? Non sapevo nemmeno di potermi muovere così. Ida era immobilizzata. Era sorpresa ogni oltre immaginazione. Cercò i fiori malati. Voleva che anche loro iniziassero a ballare. Ma non era l'unica a desiderarlo. Ehi, voi! Non venite a ballare? (Ride) Non mi sento molto bene. Andiamo adesso, la danza ti farà sentire meglio. Ah sì, andiamo a ballare, Brenda. Sì, divertiamoci finché possiamo. Oh, il loro colore è quasi sbiadito. Eppure guarda come sono felici. Abbiamo così tanto da imparare da questi fiori. Proprio in quel momento si sentì un colpo dal cassetto di Ida. Lo spazzacamino aprì il cassetto e vi trovò Sophie dentro. Ah, pensavo che non sarei mai uscita da lì. È così buio lì dentro. Che succede qui? Stiamo facendo un ballo e una festa. Una festa? E perché nessuno mi ha invitata? Oh, ti sto invitando ora, ballerai con me? Oh, ragazzo, miri così in alto, eh? Sophie voleva che un bel fiore le chiedesse di ballare, ma tutti i fiori stavano ballando e cantando. Nessuno aveva tempo di guardare Sophie. Si sedette quindi sul cassetto aperto. Forse non era visibile a tutti, pensò. E ancora nessuno veniva. Alla fine decise di entrare nella danza da sola, ma... Stai bene? Sei ferita? Oh, tu! Non c'è un bel uomo che viene ad aiutarmi? Va via! Sto bene! Oh, lascia che ti aiuti! Perché sei così gentile con me? Beh, certo! Ci hai dato il tuo letto! È stato molto generoso da parte tua. Oh, sì. Siete tutti davvero carini. Potete tenere il mio letto. Non mi lamenterò. È davvero dolce, ma non possiamo usarlo. Domani andremo via. No, per favore non andate. Non possiamo restare, cara. Farai una cosa, vero? Chiedi a Ida di piantarci nel giardino. In questo modo potremo tornare ogni anno. Glielo dirò sicuramente. Ah! Oh! Cosa ne è stato dei miei fiori? Oh, non vi preoccupate, siete ancora carini come sempre. Ida guardò il giardino e... Oh, che meraviglia! Fece un sorriso così meraviglioso. Ora che credeva nella magia, Ida sapeva cosa doveva fare. Ida adesso poteva parlare al sole e alla luna, cantava con i cucchiai e ballava con le piante, perché adesso lei credeva nella magia, vedeva la magia ovunque. Anche i fiori avevano mantenuto la loro promessa, tornarono da Ida anno dopo anno. La leggenda dice che la città di Quicksville ha ancora fiori che ballano tutta la notte. I fiori di Ida, che hanno portato la magia a Quicksville e un sorriso alla piccola Ida.